Ma lei ci dorme di gatto. Questi qua sicuramente sono per i 50 Hz. Se sono 50 sono buoni. Eh sì. Per fare gli RF shock questi qua vanno bene, per i cosi di radiofrequenza. Cara gara, lui oggi va con le maniacca, ti difendi. Non hai voglia di mangiare? Se facciamo mangiare. Io quando non ho giovana non mangio, mi siedo a tavola perché bisogna farlo, però non quando non ne voglia non mangio. Quando non ne voglia non mangio nulla. Quindi devo mangiare a forza, ieri notte abbiamo preso la Fenice, avevo tutta notte sullo stomaco. Non ho capito il motivo, neppure, già dovrebbe essere roba leggera, ma tutta la notte non te ne so. Ero ancora ira che ti gira. E vabbè. E sai cos'è? Che qualcosina la devo mettere dentro, perché devo prendere una pastiglia verso le 10 che devo avere almeno un fondo di qualcosa adesso, che è molto grossa, è da 1000, è un casino, la devo prendere dopo il pasto. Ti mangi un mezzo panino e te la prendi fra. Infatti posso uscire. E tu cosa hai combinato? Io ero tutta la mattina a Sassari, poi sono rientrato, ho pranzato, sono tornato di nuovo a uscire, sono rientrato erano le 6:15 e mi sono messo qua a fare questa cosa qui. Mi sono messo a recuperare un po' di questa cosa. Capita a pensare che affari non c'avevi 4 milioni in uno quando sono usciti. Invece io tutto il giorno, ogni tanto me prendevo e me ne uscivo, tanto per uscirmene, per non stare qua a svagarmi. La marina? Qua a Torso. Sceso giù in piazza, ho parcheggiato la macchina e mi sono cambiato a pizza. Fra, che tu ti dovresti prendere un pezzo di un pezzo di terra, farti l'orto e dai, queste cose qua. A me non già mi sarebbe piaciuto qua vicino, ma visto che non ne ho qua non mi tarisce. Ormai non me ne compro più, non ne vale la pena. Vabbè fra. Lui su è vero, perché se no devi cominciare, devi stare a mettere benzina, gasolio, queste cose così e non ne vale la candela. Ieri mattina sono andato a Sorso, mi hanno fatto pagare 8 carciofi e 7 banane, 12,70 euro. 8 carciofi e 7 banane, 12,70 euro. Già è poco. E per forza, i carciofi mi sembra che sono a 1,50 l'una, o a quanto sono. Perché ne ha preso due mia moglie l'altro giorno, perché glielo ho detto di prendere per mangiarle così, no? A 1,50 l'una l'ha pagato. Alla stazione. Esatto. Anche io l'ho preso. Capita, bubu. Purtroppo a volte, infatti magari mi ha detto che mi dici, se mi faccio a me sono a 1,50, ti chiami i luci, cosa li faccio? La mia gara, che non va bene, non li mangiamo. Fra. Però purtroppo stanno esagerando. e di seconda, se prendi il taglio di prima guai, forse a 1,50 ti ha dato quelli di prima, mi fa, però, perché a me mi ha detto, li vuoi per cucinare o per mangiare usi? Ho detto, no, devo fare la frittata, la crostata, la torta salata. Allora ti do il taglio di seconda, mi ha detto. Capo, no, ma è molto bella, sicuramente era di prima, era perché erano molto belle. Qui aveva un tronco lungo e grosso, ma bello, e tutto morbido dall'inizio alla fine. Quando è così già li valgono, già. Io dovevo, non lo so. E capannone, vi dicono da noi, capannone, verrà via, 10 carciofi, 5 euro. Ma dito, mi. Quali sono a 50 centesimi? Compro, buonasera. Buonasera Tino, ben sentito, compagnia di Franco da Suerso. Cappa, ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. Capita. E tu compri e chi li vende? Tu metti a 5 euro, compro subito. Ah, 5 euro l'ha detto Gavino, io ho detto 1,50 ti è venuto. Sì, anche io le sto cercando, sto cercando, ma anche mamma mi ha detto la cassetta, mi sembra, non ricordo, c'era, insomma, ha fatto l'affare, ma ne poteva fare di più, e forse erano di primo taglio anche. 10 carciofi, 5 euro ti a Sassari stamattina, ne ho preso ieri 8 carciofi e 7 banane, 12,70 euro. Ma dove però? Forse tu sei... tu stai dicendo a... di Appalto. E che c'hai? Stai andando in portante da solo, In via Pascoli stai dicendo? No, in... diciamo da uno che le vendeva col furgone, dove c'è Cesaraccio. Ah, ho capito. Ma è importante? Sì, no. Guarda che stai andando in portante da solo di là, Io? Se non sto schiacciando niente. Fra, tu sì. No. No, è da Tino, quando parla Tino. No, sarà anche da me, però è fa fondo scala lui, da solo. Io c'ho una ricezione. Ah, allora, comunque si sentiva da te, sentiva, quello che c'avevi tu. Sì, si sentiva da me. Se tu, allora, ti spiego, Fra. Io sto parlando ora. Quello innesca perché magari Gavi schiaccia la portante. Lo vedi? Schiaccia, Gavi? Innesca quando parla qualcuno. Ah, ho capito. Allora abbassalo il volume. Quindi c'è qualcuno che mi sta traslando, ma poco me ne frega a me. Ah, così è. Me ne frega poco, sai perché? Perché tanto innesca non riesce a mandare quello che vuole. Va bene. Oh Gavi, chi era quello marziano? Adesso non mi ricordo che macchina, una Ford mi sembra. Un camioncino bianco era, un Ducato bianco. Aspettate che un attimino spengo questa torta salata, sennò stanotte devo mangiare un pezzo di cane, un gatto o qualcosa. Un attimino, che sono anche solo. Cappa, e allora non era quello che sto dicendo io. Va bene. Perché ti dovrebbero trasolare? Anzi, ci dovrebbero. Ma cosa ne so, ma c'è tanta gente malata, quindi non è che... Non mi interessa. Ma che facciano quello che vogliono. Forse un tempo uscivo anche a cercarli, forse. Adesso non mi interessa proprio. Non ho tempo da perdere con gli imbecilli. Quello è poco, ma sicuro. Vabbè. Non è niente. Tanto. Vuol dire che non ci vogliono sentire parlare. Ma io l'ho sempre detto, che non fa tra cugini, tra parenti non funziona, l'ho sempre detto, che tra parenti. Poi lo vedi cosa nasce. Milomì, in arrivo un altro bonus in busta paga, vai, che passiamo in 3.000 euro, dai. Sì, adroffa. Bonus in busta paga? Io ho recuperato quella roba stasera, amici. Bella mossa, sono contento, meno male, dai. Vabbè, ne parliamo Mi è dispiaciuto, però era un problema. Roba tua, ho fatto i dini, lascia perdere, è andata bene, finito, chiudo l'argomento. Sì. L'ho recuperato tutti da una scheda che avevo di una 3D, un apparecchio. 8 toroidi. Sì, vabbè, giusto per fare antenne. Ma per la radiofrequenza... Questi qua magari non sono 0,30, però sono per ritorni di radiofrequenza, vanno bene, per fare, diciamo, i ciocchi vanno bene. Ah, ho capito, ho capito. Ma io ce l'avevo uno, porca miseria, di... Non so che fine ha fatto, boh. Ne avevo uno proprio attaccato... Ah, ho capito dove, basta. Ce l'ho nel... 25, 27, 25, no, sì. Nell'icon. Sì. Io avevo... Dove ce l'hai attaccato? Nel VHF. In quello che ti è partito? Sì. Dovrebbe su va. Lo devo togliere, sì, ma lo metto qua... Lo metto qua nel... Nell'MD. Dove vado a fare la spesa? Una cosa, ma no, non è quella, dai. Non è quello. Aspetta, cioè, abbiamo parlato in due, cosa è successo? No, ho detto che stavo pensando a una cosa, ma non può essere quello. Non può essere quello. O quel fischio che avevo avanti ieri? Per niente, va bene. Vedi a cosa servono i toroidi? Sì. Va bene. Oh ragazzi, io vi lascio, a dopo magari, se ci siete, e ve vado a mangiare. Ciao, buonanotte, ma buonanotte mi. Buona cena e buon tutto, grazie, ma è briago gioco. Adesso dovevi di tu ci sei briago oppure no? Sì, va bene, dai. dai, ci sentiamo dopo, mi sta chiamando a mangiare. Buona cena quando la fate. Ce la facciamo. Io non ho neanche un pezzo di quella cosa e basta, sono solo, ho le, diciamo, le ragazze fuori stanotte a cena. Va bene, no, io non lo so, vabbè. No, oggi mi sono sbizzarrito, ho visto un pezzo d'agnello, mi interessava, l'ho preso, vabbè. Non ho neanche guardato quanto era, figurati, devo trovare, allora. Per il porcetto non c'è problema, perché è un amico che me lo porta anche a casa. Ma l'agnello non ce l'ha, porca miseria, tocca cercare qualcuno che non dia lo stato bravo. Ma l'hai trovato, cos'era, di quelli vivi presi per il colletto? No. Di quelli ho trovato un bel di muffloni, un bel di pernici, qualche cinghiale e un bel di capre. Va bene. Io a me l'agnello piace da impazzire, però mi rimane 40 giorni sullo stomaco. Anche se mi bevo 20 litri di acqua vite non succede niente. Sia l'agnello che la pecora. E la mangiavo un giorno sì e uno no, un giorno sì e uno no, un giorno sì e uno no, perché mi piace da impazzire, soprattutto fatta la cacciatora, la pecora con le olive. E gli gnocchetti era una cosa sacrosanta del sabato a mezzogiorno, però alla fine non la digerisco più, bisogna adeguarsi, bisogna accettare i cambiamenti della vita, non ce la faccio più a mangiarla, sto male. E dove l'hai preso, di là? No, l'ho preso... c'è la Coop, cos'è? Non so neanche cosa sia, che negozio c'è, non mi ricordo come si chiama. E vabbè, c'è una vasta gamma di carne, mi è piaciuta, l'ho preso. E poi io non guardo neanche i prezzi, io quando la cosa mi piace vado a testa bassa, capito? Ho preso un po' di carne di cavallo, è quello lì. No, a parte di cambiamento, Gavi. Sta succedendo anche a me. Oggi abbiamo fatto due giri di di salsiccia arrosto, lì al lavoro. Ma ci credi che la sto ancora digerendo questo? Boh. Beh, a me me lo fa, io te ho preso la fene mia madre e sono rimasto fino alle 2 bevendo acqua gassata per prendere, cercare di mandarla giù. Non l'ho digerita, non l'ho proprio digerita. Ed ero fino a stamattina, fino a stamattina lo stesso mi sono svegliato, diciamo, questi reflussi. Ma secondo me non siamo, secondo me la roba è buona. E allora, no vabbè, io quando, anche l'anno scorso, me ne sono accorto che quando ne mangio un bel mi viene difficile digerirla, ma perché io sono esagerato, io se non la vedo dall'inizio alla fine non la mollo e quindi effettivamente sono esagerato, credimi. Oggi ne ho portato 2 giri, ed eravamo in 3 che la stavamo mangiando, ma 2 giri importanti, però non 2 giri da di quelli tipo da 1,3 kg, 1,4 kg l'una. Quindi, voglio dire, in 3, tanti bagni di puoi mangiare. Me ne ho mangiato 1,5, ma proprio perché volevo stare leggero, se no voglio. Ti sei tutto ingolfato. Io faccio così, però quelle le digerisco, Io faccio così con le melanzane, quando mia moglie prende e fa le melanzane agli atta, o le melanzane alla parmigiana, e poi le fa belle, fatte bene, senza guardare nessuna forma di risparmio. E poi fatte con la passata, col concentrato di pomodoro, non con la passata. Vado a Cesaraccio, a Sassari, e gli dico, mi dà 6 focaccine, 3 sono le mie. Lo so, dopo devo andare in pinetta, devo andare a correre con i cani, a camminare per smaltire, però io esco di testa, ne fa. Hai visto quelle teglie da forno, che si sono per far passare al forno? Di quelle ne fa 2, spessore 5 centimetri. Lo so. Ma guarda, molte volte cerchi di evitare, perché effettivamente se ti metti d'impegno, se ti metti a mangiare queste cose qua che ti piacciono, poi inizi a levitare, insomma, è un casotto, bisogna mangiare sì, però cercare di essere un po' contenuti. Vabbè, bisogna contenersi un po', dai. Perché poi se non così, ma vengono le cose, lo scontrino viene tutto a un colpo, soprattutto per quanto riguarda i grassi brutti. Io avevo detto che ieri era mercoledì e mi aspettava il carboidrato, quindi potevo mangiarlo tranquillamente. Oggi non so se mangiarmi una mozzarella, cioè perché ho questo tortino qua facendo, però non so se mangiarmi una mozzarella o qualcosa, o in modo da stare leggero. Ti ho capito. Vabbè, io ho mangiato qua, credimi, solitamente non mangio neanche un panino, è raro che mangio un panino a pranzo, ma è raro veramente, per oggi l'ho fatto perché mi aspettava di diritto. Questa buffonata di quando è fame, non c'è niente da fare, quando è fame non c'è niente da fare. Mi sembra che io mollo un attimo, mi mangio qualcosina e poi rientro subito. Intanto sono soloti, loro sono a cena da riunione di colleghi di lavoro, quindi ma senti che sono in studio di registrazione, non ho il rumore di QRA. No, vai, vai, tanto io sono seduto giusto perché avevo bisogno di bermi una bella berretta perché per digerire ancora. Visto e considerato che Nicola stava facendo la doccia, ho temporeggiato e aspetto un pochino e poi anche io vado a darmi una sciacquata. Vabbè, sono qua comunque. Sì, io mangio qualcosa, dovevo mangiare i cani, così poi si rilassano, me li porto dentro e niente. Mi metto comodo e rientro in radio, dai, che sono ancora in tenuta nera, sembro l'uomo nero. Dai, ci sentiamo dopo, ti faccio chiamate poi quando se stai cenando. Sono qua in radio ascoltando, faccio un po' di radio ascolto anche in 80 metri, ok? Ciao, a dopo. Sono qua, dai, ciao, a dopo, ciao.